Preso tanto, però insomma l'accettiamo. Ma sicuramente è un risultato importante su un campo importante contro una squadra importante, contro la squadra campione del mondo. Per di più hanno giocato tutti i titolari, invece noi abbiamo fatto diversi cambi, molti, molti giovani. Sono contento soprattutto per loro. Quanto importante è riuscito a infilare degli orossi uno dopo l'altro? Mi pare almeno tre. Primo argomento di oggi, il principale. Tornano, come tradizione, nelle piazze italiane le stelle di Natale dell'AIL. L'AIL è l'associazione che studia e combatte le leucemie, i linfomi e il mieloma. E allora come ogni anno, ed è il 20° anno consecutivo, nei giorni 6, 7, 8 dicembre è in programma questa iniziativa, per cui in 3.500 piazze italiane oltre 800.000 stelle di Natale verranno acquistate, mi auguro, tutte, a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro, diventando così sostenitore di questa associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Lo ripeto, i fondi raccolti con questa manifestazione verranno impiegati sia per finanziare la ricerca scientifica, sia per migliorare la qualità delle cure, sia per continuare nella realizzazione di case alloggio, case AIL, nei pressi dei maggiori centri di terapia del paese, sia infine per collaborare al servizio di assistenza domiciliare ai pazienti ematologici di tutte le età. Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella, questo è lo slogan di questa manifestazione, giunta, ripeto, alla 20° edizione. Un altro argomento l'abbiamo ereditato da ieri. Ricorderete la vicenda di Massimo Morgia e il suo appassionato intervento in diretta nella puntata di ieri per raccontare il perché delle sue dimissioni dalla panchina dello Juve Stabia. Ci ha chiamato il primo dirigente del commissariato di Castellammare di Stabia, Luigi Petrillo, che ha contribuito a una spiegazione dell'accaduto in questo racconto raccolto da Flavio Soaldi. Per quanto riguarda i giocatori aggrediti, voglio precisare, non fuori dallo stadio, perché non avrebbero potuto farlo in quanto lo stadio era molto ben vigilato e protetto dalle forze dell'ordine, ma lungo il percorso. Cosa che a noi non poteva che sfuggire, perché li hanno seguiti e il momento opportuno sulla statale che conduceva verso Sorrento li hanno fermati e malmenati. La cosa che a noi polizia ha fatto molto dispiacere è che i giocatori, piuttosto che chiedere un intervento delle forze dell'ordine, che fossero state carabinieri o polizia, hanno denunciato la cosa alla stampa e noi lo abbiamo appreso dai giornali soltanto il giorno dopo, rimanendo molto meravigliati, tant'è che abbiamo creduto in un primo momento ad una esagerazione della stampa. Abbiamo dovuto reperirli con estrema fatica durante la giornata e soltanto la sera del giorno successivo siamo stati in grado di ricevere le loro denunce, fargliele formalizzare presso il commissariato. Da quel momento sono partite le indagini vere e proprie, che devo anticipare, anche se non posso sbilanciarvi molto perché la cosa, ovviamente capirete, è coperta dal segreto istruttorio, ci ha portato a qualche risultato per il quale abbiamo già riferito con una dettagliata informativa alla procura locale, alla procura di Torre Annunziata. Mi pare che l'ambiente a Castellammare di Stabia e attorno alla Juve Stabia non fosse tranquillo già da diverso tempo. Allora, l'ambiente intorno alla squadra, sì, devo convenire che non è tranquillo perché la squadra non sta dando i risultati attesi. Le pressioni, diciamo, sono rappresentate da qualche epiteto dagli spalti praticamente, ma lei sa bene che le tifoserie spesso si lasciano andare a queste manifestazioni verbali, ma non c'erano stati assolutamente episodi di violenza tali da poterci far allarmare più del normale, perché qualsiasi campo di calcio, diciamo, in qualsiasi campo di calcio accadono queste intemperanze di tipo verbale, insomma, superate da scrosci di grandissimi applausi quando l'azione, insomma, contra l'approvazione del pubblico. Voi dunque non vi aspettavate una reazione di questo genere o comunque un comportamento di questo genere che ha portato i tifosi addirittura a seguire questi giocatori sulla statale e a fermarli, ad aggredirli? Noi non la escludevamo completamente, tant'è che la squadra viene alla fine della partita, viene seguita fino all'hotel di Castellammare, ove lasciano le loro autovetture e poi ognuno prende la strada della propria destinazione finale. Quindi noi sorvegliamo anche il percorso della squadra fino a questa prima destinazione. E il fatto che li abbiano, che siano stati fermati ed aggrediti molto oltre, è proprio testimone alla qualità del nostro impegno, perché non avrebbero in nessun caso potuto farlo prima. Il nostro messaggio è che la squadra, i giocatori non devono preoccuparsi, perché hanno sempre avuto tutto il nostro sostegno, in questo frangente lo avranno ancora di più, e se qualcuno alza il tiro lo alzeremo sicuramente anche noi. Ringraziamo il dirigente del commissariato di Castellammare di Stabia, Luigi Petrillo, anche se io ho isolato una frase, la frase è: devo convenire che l'ambiente non è tranquillo, anche perché la squadra non sta dando i risultati attesi. Io sinceramente ho sentito questa frase con un pochino di raccapriccio. È arrivata a Morgia, ripeto, dopo la sua disavventura, ma anche dopo il suo intervento di ieri, a questi microfoni è arrivata la solidarietà di Renzo Olivieri, che è il presidente dell'Asso Allenatori. Sento la necessità, a nome di tutta l'AIAC, ha detto Olivieri, di esprimere la piena solidarietà a Massimo Morgia e ai calciatori Brunner e Radi, coinvolti loro malgrado negli incidenti di domenica scorsa. Ma poi Olivieri, che conoscete anche voi perché spesso interviene a questo programma, non è uno che si nasconda dietro le parole, anzi, e ha aggiunto e ha spiegato meglio: il gesto delle sue dimissioni per protesta contro la situazione di inaccettabili intimidazioni colpisce per coraggio, disinteresse e inquieta per il suo significato profondo. Non può funzionare, ha detto Olivieri, un sistema che costringe chi è giusto a dover cedere alla violenza. Non si tratta di un caso isolato, come è assai diffusa la gestione manipolata e interessata di frange ultra per imporre strategie a società spesso lasciate sole. Se è vero che la stagione in corso, almeno per quanto riguarda gli incidenti da stadio, in Serie A ha fatto registrare il dimezzamento delle multe legate al comportamento dei tifosi, non si possono però ignorare episodi come quello che ha subito Morgia, ancora troppo numerosi e pericolosi perché inquinano la base dell'intero movimento calcistico italiano. A questo proposito serve l'impegno di Lega, Federazione, Forze di Sicurezza e amministrazioni locali per contrastare con efficacia una violenza che non arriva in prima pagina, ma che produce effetti non meno devastanti. Sino a qui Olivieri. Noi torniamo brevemente al dopo partita di San Siro per ascoltare questa breve dedica di Ancelotti alle prestazioni di Shevchenko e di Dida. Si è mosso molto bene, anche nel primo tempo ha avuto buone opportunità, ha attaccato bene la profondità, ha fatto un'ottima prestazione, coronata anche da un bel gol. Molto bravo, ha dimostrato di essere ritornato ai suoi livelli, questa è la cosa più importante. Comunque in questo momento anche Abbiati sta giocando molto bene. E questo mi pare oggettivamente vero. Stefano da Brescia scrive: va bene che un centravanti debba essere egoista, ma Zárate mi pare che dovrebbe esserlo un po' meno se vuol davvero diventare un grande giocatore. È il limite per ora di Zárate, quello di essere un po' tanto mangia palloni. Le qualità si vedono, c'è stata una nettissima flessione, diciamo produttiva, perché insomma, vi ricorderete i gol a grappoli nelle prime giornate, adesso non riesce più a trovare la porta. Questo non toglie che si muova e che crei un sacco di situazioni di pericolo, ma è vero perché lo si vede, ripeto, che Zárate un tantino venezian, come si diceva una volta per i calciatori un po' egoisti, oggettivamente lo è. Il commento soddisfatto del presidente della Lazio, Lotito: sono contento per la prestazione della squadra, che ha dimostrato di avere qualità, di essere in grado di poter esprimere, come ha espresso, le potenzialità che ha, e penso che la meritoria sia totalmente meritata. Il problema del confronto con l'Inter è un confronto con una squadra che noi sappiamo che è la prima in classifica, che è una grande squadra e che quindi dobbiamo metterci il massimo per poter confrontarci e far sì che la squadra possa fare quello che ha fatto questa sera. Non so se ci riuscirà, mi auguro però che parta con la tensione agonistica giusta, con la concentrazione giusta, sapendo di avere le potenzialità per potersi confrontare a pari con tutti. Oh, ovviamente questa era già una proiezione, perché la Lazio ha sistemato ieri sera il Milan in Coppa Italia, avrebbe tutte le buone intenzioni, avete sentito di ripetersi tra tre giorni, anzi tra due ormai, tre giorni dopo, nell'anticipo serale del sabato, quando all'Olimpico a Roma riceverà l'Inter. Non c'era soltanto, il dibattito sul Milan, ovviamente, che già in questi giorni era discretamente vivace, è stato amplificato dal risultato di ieri sera. Allora, tra le molte lettere di tifosi che ho ricevuto, ho selezionato quella firmata da Andrea Dolci, che segnala le tre cose che lo hanno colpito ieri sera. Una è Dida. E mi chiedo, scrive questo ascoltatore, se vista la situazione di infortuni non sia il caso di chiudere Milan Lab e di aprire uno psicolab, perché se riuscissimo a recuperare quel Dida che io ho in mente, cioè che mi ricordo, saremmo già sulla buona strada per ricostruire la difesa, fermo restando però che è vero che Abbiati sta facendo una ottima stagione sino ad ora. La seconda cosa che mi ha lasciato perplesso, scrive ancora questo ascoltatore, è vedere Kakà consumare quantità enormi di energie per tamponare a centrocampo. L'ultima è la gomitata di frustrazione assestata da Ronaldinho. Penso che fotografi perfettamente la situazione del Milan di ieri sera e temo che l'arbitro non abbia sanzionato il gesto per non infierire. No, io questo lo scuderei, non ha sanzionato il gesto perché non l'ha visto, ed era certamente un gesto da non soltanto da censurare ma da punire, perché era un gesto veramente brutto, era una cosa da espulsione, basta, senza se e senza ma. Risultati alterni invece nelle partite di Coppa UEFA, nel senso che la Sampdoria è letteralmente crollata a Liegi, come sapete. L'Udinese invece ha raggiunto la qualificazione battendo la Dinamo, però è vero che ci sono stati incidenti gravi, non certamente per colpa dei tifosi friulani, anzi per via degli ultra croati. Prima il commento alla partita di Marino. Sicuramente dobbiamo fare il risultato, dobbiamo giocare, non siamo matematicamente primi, quindi ci sarà da sudare per ottenere quantomeno un punto per consentirci di arrivare nella prima posizione. Quando si gioca in una certa maniera per un lungo periodo, si incappa in un altro periodo negativo, è chiaro, bisogna tirare fuori qualcosa in più per ricominciare. Ecco, stasera abbiamo fatto un buon passo in avanti, perché credo che i ragazzi hanno fatto una buona partita, hanno creato qualcosa, hanno rischiato poco, quindi credo che il risultato forse è stretto, e quindi per quanto riguarda il morale sicuramente aiuterà la squadra a presentarsi a Bergamo certamente in maniera diversa rispetto a domenica scorsa. Vi dicevo delle violenze dei croati, 19 tifosi di questi gruppi di ultra di Zagabria, che sono particolarmente conosciuti e particolarmente pericolosi, sono stati denunciati dalla polizia di Udine per vari reati. La questura ha adottato nei loro confronti anche il famoso DASPO, cioè il divieto d'accesso a impianti sportivi. In particolare 12 tifosi sono stati bloccati mentre compivano furti, altri 5 danneggiavano auto in sosta nelle vie cittadine, in più 2 completamente ubriachi sono caduti dalle tribune dello stadio e sono tuttora ricoverati in condizioni non semplicissime in osservazione in ospedale. Questa partita ha impegnato la bellezza di 400 uomini della questura di Udine più un gruppo della celere di Padova. Le tifoserie sono sempre rimaste separate, non ci sono stati scontri, ma questo è il prezzo che si deve pagare per organizzare una partita di Coppa UEFA. E visto che tra poco poi parleremo di calcio internazionale da un punto di vista organizzativo, normativo, anche economico, finanziario, uno degli appuntamenti classici della settimana che cade di giovedì, mi pare che torni l'attualità più che mai con questi incidenti gravi. Intanto la necessità per l'UEFA di sanzionare durissimamente la società per responsabilità oggettiva, e quindi mi auguro per escludere la Dinamo di Zagabria per qualche tempo dalle coppe, visto il codazzo di belle personcine che si porta dietro, e però anche per organizzare quella che Platini da tempo reclama, e cioè una sorta di task force sovranazionale che unisca tutte le polizie specializzate in questo tipo di prevenzione e, se occorre, di repressione, quello cioè contro i gruppi ultra. Prima dell'intervallo un ascoltatore, Valerio, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo farle prima di tutto una considerazione su un complimento sul garbo con cui da sempre lei tratta l'argomento calcio, e dovrebbe essere una cosa un po' più generalizzata a mio avviso. Questa è la, sì, io credo, diciamo, il, l'augurio che mi faccio e che dovrebbero farsi tutti. Ma qua. La ringrazio di questo, però io credo che anziché anziché, come dire, sottolineare l'eventuale, perché non sta a me dirlo, l'eventuale garbo mio, andrebbe semmai sottolineata la generalizzata villania altrui, perché è quella che dovrebbe essere, è quella che è fuori norma. Non credo questo tipo di approccio. Comunque, Carlo, grazie e andiamo avanti. E detto questo, volevo fare una domanda sul Milan, perché io sono milanista, sì, da una vita, e sulla mancata programmazione, diciamo la mancanza di un progetto. Io non capisco come può una società che ha dimostrato di essere così lungimirante negli anni scorsi nella programmazione dare questa sensazione di improvvisazione continua, cioè questi acquisti un po', diciamo, se mi passa il termine, schizofrenici, che probabilmente non farei nemmeno io, che non sono addetto ai lavori. Cioè questo tipo di gestione così un po', Valerio, non lo so, a cosa è dovuta secondo lei? Ma una mancanza della dirigenza che oramai, non lo so, magari Valerio, è dovuto, mi scusi perché c'è il traffico che incombe, è dovuto a un sacco di ragioni, alcune storiche, alcune e alcune magari legate alla cronaca. Io le faccio un esempio che mi ha molto colpito nelle scorse settimane, quando Galliani, cioè il plenipotenziario, ha detto più volte, ma l'ho ripetuto veramente con grande compiacimento, davanti a microfoni e a taccuini, ha ripetuto in maniera reiterata e con grande soddisfazione, è stato Beckham a scegliere il Milan e non il Milan a scegliere Beckham. Io credo che sia l'inizio, o forse credo che sia la spiegazione vera ed assoluta a quello che sta dicendo lei. Cioè, io credo che se una società come il Milan, se anziché scegliere i giocatori si fa scegliere, io credo che sia l'inizio della fine. Però ovviamente questa, come sempre, è un'opinione. Chissà, scrive Riccardo, se i tifosi milanisti incolpano Pirlo anche per la sconfitta di ieri. Beh, insomma, faranno un po' fatica, immagino, visto che non ha giocato. Però io ho sentito dei ricamatori in questi giorni capaci anche di dire che gli effetti della presenza di Pirlo nella partita di campionato si sono riverberati anche ieri sera, perché quando i tifosi si mettono in testa una tesi non è mai semplicissima da smontare. Mi ha raggiunto Marco Bellinazzo, bentornato. Buongiorno. Con un discreto catalogo di argomenti da trattare per i consueti appuntamenti del giovedì. Io direi di partire però dalla violenza, e cioè di partire sia dal caso Juve Stabia, per quanto riguarda il Ministero degli Interni, cioè gli affari interni, e con le conseguenti con i conseguenti provvedimenti di CASMS, osservatori, finché ce n'è, e poi magari di arrivare anche a quel che si diceva prima, e cioè al fatto che l'UEFA non da oggi si preoccupa di migrazioni di hooligans e sta cercando in questo, cioè vorrebbe convincere la UE, dopodiché parleremo dell'altra cosa su cui vorrebbe convincere la UE, l'UEFA, per creare una struttura sovranazionale che si occupi specificatamente del problema. A lei la parola. Beh, il problema che si è evidenziato a Castellammare di Stabia, che non è un territorio facile di per sé, è stato analizzato nell'ultima riunione del CAS, ma quello che tra l'altro mi ha colpito leggendo le ultime determinazioni, così si chiamano, le decisioni del Viminale in materia di sicurezza nel calcio, è che non è un caso isolato. Per esempio, leggevo che i problemi sono verificati dopo l'incontro Juve Stabia a Lanciano, sono emersi anche in altre partite, e soprattutto si dice lungo le strade di accesso agli stadi che hanno visto protagonisti tifosi dell'Aquila, del Falerna e della Puteolana. È chiaro che a questo punto, se si è cercato in questi mesi di blindare gli stati con i tornelli, gli steward, ne abbiamo raccontato diverse volte, evidentemente la violenza si è spostata. Si sta spostando, e forse è vero. E diventa ancora più difficile da controllare, perché il problema, perché può colpire qualsiasi punto del territorio, perché si è molto estesa anche alle categorie minori. Ti do da stamane gli aggiornamenti del CASM sui divieti di trasferta del prossimo turno. Allora, Napoli-Lecce, quindi i leccesi non potranno andare a Napoli, ma poi Benevento-Juve Stabia, Magliani con l'Aquila, Nissa-Siracusa, Accragas-Licata, e siamo già i dilettanti, Grottaglie e Bitonto ancora dilettanti, e così Ippogrifo Sarno Battipagliese. Ora, È ovvio che chi vive in quei territori, chi conosce le realtà locali, probabilmente saprà benissimo che queste sono davvero partite a rischio. Viste un po' di lontano, se a noi parlano di Ippogrifo Sarno, Battipagliese, possiamo vivercela come una festa di lontano, no? Come la sagra di due città che si incontrano e che per l'occasione di una partita di calcio magari fanno pure festa, insomma. Il valore sociale che ha lo sport e il calcio in particolare in Italia, parlo di valore cercando di guardare l'aspetto positivo, certo, è tale che anche queste realtà locali, insomma, esprimono delle squadre, dei club che sono molto seguite, c'è grande passione, queste città vivono attorno all'evento sportivo, in particolare insomma i giovani. Il problema è che se diventano occasioni per, come dire, sfogare determinati disagi o per, come dire, far valere la propria capacità di incidere sul territorio anche da un punto di vista economico, e qui mi riferisco magari a gruppi organizzati che sono limitrofi se non integrati in associazioni di tipo camorristico, sì, o mafioso, perché dobbiamo parlare anche di questo siamo su quei territori, tra l'altro, non è inutile che ci nascondiamo. Il problema non può essere risolto al Viminale con questioni di ordine pubblico legate a manifestazioni sportive. È chiaro che il problema è più vasto. Tra l'altro il CANS ha appunto reso noto alcuni dati, o comunque indicato dei trend precisi. Gli episodi di violenza stanno diminuendo a livello di massima serie A, sì, serie B, ma stanno aumentando e tra un po' potremmo dire anche di quanto, perché le statistiche le stanno ancora elaborando, ma nei campionati dilettantistici c'è un forte incremento, e questi risultati, il caso di Juve Stabia, ma anche questi primi episodi che il CAS sta segnalando in maniera ufficiale, sono soltanto il sintomo di un problema, secondo me, certo, molto più vasto. Scrive un ascoltatore, si firma Marco, cioè non si firma, è certamente Marco da Lucca, dice una cosa abbastanza greve in realtà, dice: in un paese normale un funzionario di polizia e di pubblica sicurezza che dica che i tifosi sono agitati perché i risultati della loro squadra non sono buoni sarebbe licenziato all'istante. Ora io tanto non siamo in un paese normale, quindi non può accadere, mi auguro che non accada mai. Sono assolutamente certo che il dirigente del commissariato di Castellammare di Stabia, Luigi Petrillo, che il cui intervento abbiamo mandato in onda prima, quando ha detto questa frase voleva in realtà molto semplicemente, bonariamente inquadrare quello che è accaduto in un aspetto, non nascondendosi dietro una realtà, che poi questa realtà sia agghiacciante e che faccia specie, insomma, indubbiamente sentirla enunciare acriticamente a quel modo da un funzionario di polizia è altrettanto vero. Marco, un'altra agenzia appena uscita mi è sembrata curiosa, cioè il titolo dice: a proposito di Carms, i dilettanti squalificati rischiano anche il DASPO, che significa che il calciatore che fa violenza in campo può essere soggetto di allontanamento dagli stadi. Sì, ho letto anch'io l'agenzia ora entrando qui in studio. Mi ha sorpreso, fa parte secondo me di quelle misure di emergenza che si sta cercando di adottare per frenare il fenomeno. Evidentemente nei campionati minori, quando i calciatori insomma hanno manifestato per ottenere una squalifica sportiva particolare, diciamo violenza negli interventi, immagino si riferisca a questo insomma, sì, il comunicato del CASMS, può essere anche ovviamente oggetto di un DASPO, in quanto insomma soggetto per il ritenuto pericoloso, insomma potrebbe, come dire, far parte poi di determinate tifoserie e scatenarsi sugli spazi, ma più o meno il contesto può essere questo. Anche questo elemento lo considero, ecco, forse il frutto di una serie di interventi un po' non del tutto equilibrati, nel tentativo di frenare un fenomeno che si sta allargando anche fisicamente agli spazi intorno agli stadi, nei piccoli centri, e che diventa proprio per questo di più difficile attenuazione. Io ti chiederei soltanto un sì o un no su questa considerazione. Sulla base di, premesso che fanno un lavoro molto difficile, ma sulla base di notizie come questa, altre indiscrezioni, provvedimenti presi recentemente, tessere al tifoso di cui abbiamo parlato, eccetera, noi siamo sicuri che tra Osservatorio e CASMS questi due enti stiano funzionando come ci si aspettava? Sì, no. È troppo difficile. Troppo secco, non vorrei inimicarmi il Viminale, ma no, non scherzo. Ho paura che alcuni interventi siano stati presi senza conoscere bene il fenomeno, soprattutto nelle piccole realtà, e che da questo punto di vista il lavoro dell'osservatorio debba migliorare. Abbiamo, diciamo, un paio di minuti prima dell'intervallo lungo e poi. Allora, dato che poi introdurremo un argomento internazionale di grande importanza, mi piaceva chiudere questa fase con il discorso legato ai fatti di Ria Udine, e cioè sul fatto che l'UEFA chieda da tempo e si sia mossa e abbia dato il proprio non solo benestare ma contributo possibile, creativo, a questo concetto, e cioè alla creazione di un organismo sovranazionale di polizia che sia in grado di prevenire, e se purtroppo occorre anche di reprimere, tutti questi movimenti di ultra internazionali, perché per esempio questi, non ti dico cosa c'è in Polonia e andando soprattutto verso est, ma questi della Dinamo di Zagabria sono pericolosi veri. C'è speranza di arrivarci? Si sta lavorando in questa direzione, e la risposta, diciamo, dei ministri dello sport europei alle richieste di Platini, quelle che sono state avanzate a Biarritz nello scorso fine settimana, lasciano ben sperare, anche se non è semplice. Mi viene da pensare che, visti gli episodi che hai raccontato prima, si tratti effettivamente di scalmanate o persone con un precario equilibrio mentale, però questo potrebbe minimizzare il problema. Se si integrano sempre più le competizioni a livello europeo, c'è bisogno di un maggiore coordinamento a livello europeo anche delle polizie, e forse c'è bisogno proprio di un ufficio centrale, quello che chiede Platini, perché con una certa urgenza anche, no? Immagino di sì. Dato che poi ci saranno i vostri consueti interventi in diretta al di là dei nostri argomenti, delle nostre conversazioni, mi piaceva introdurre ancora prima nell'intervallo un argomento interessante che ha pubblicato oggi La Stampa, e che è questo: Inter e Juventus hanno deciso all'unanimità di salutare gli sceicchi nella pausa internazionale, cioè nelle lunghe vacanze della sosta di Capodanno. Perché? Per curare meglio gli infortunati, perché l'esperienza degli ultimi anni non è stata positiva. Allora, credo che rinunceranno, insomma, da quello che si capisce, a un paio di milioni di euro a testa. Ranieri aveva fatto già sapere con abbastanza chiarezza che ne avrebbe fatto meno volentieri. Mourinho non ne ha nemmeno voluto sentir parlare di andare a Emirati, Dubai o cose di questo genere. Al momento l'unica società tuttora attesa a Dubai per queste cose, vedo di là dal vetro il solito crollare del capo, è il Milan, che evidentemente non ha problemi di preparazione o di rigenerazione della squadra. Vorrei sottolineare, scrive Nicola da Udine, l'alta civiltà della tifoseria friulana, perché in altri contesti urbani i tifosi croati avrebbero provocato danni ben peggiori. Verissimo. Sempre a proposito di estremo nord-est, Giacomo da Trieste scrive: partita di eccellenza, derby Monfalcone Fincantieri, pranzo comune delle due tifoserie, sostenitori seduti accanto e bevuta finale. Questo è l'altro lato della luna. Beati voi, Giacomo, beato che si può permettere di questa realtà. Ci spostiamo a Biarritz, anche se da Biarritz sono già ripartiti Platini, l'UEFA e le istituzioni europee, dove hanno trattato il famoso tetto agli stranieri, 6 più 5, cercando di convincere la Commissione UE, insomma, a una legge apposita, a una deroga. Ci spieghi tu, Marco, a che cosa hanno cercato di convincerli e con che esiti? Innanzitutto io credo che sia il caso, insomma, di tessere le lodi di Monsieur Platini. Beh, questa se pas au niveau te, questa devo dire, dal mio punto di vista non è la prima volta. Devo dire che invece dal mio punto di vista, insomma, era più problematico, avevo una sana avversione, diciamo, sportiva ai tempi, sì, certo, per me immagino. Il calcio era Diego e poco altro all'epoca, certo. Ma insomma ho ammirato la grande classe di Platini, e devo dire che questa classe si sta manifestando anche in questo ruolo politico, diciamo che si sta candidando per un futuro ruolo di ministro dello sport europeo, qualora questa figura sarà creata, perché sta ponendo non solo al mondo sportivo ma anche al mondo politico dei problemi seri, e soprattutto li sta ponendo abbastanza tempestivamente rispetto a quando si manifesteranno. Noi siamo abituati, per esempio anche in Italia, a rincorrere le emergenze. Certo. Platini sta invece ponendo dei problemi che insomma, una volta affrontati in tempo, potrebbero effettivamente cambiare l'assetto non solo dell'organizzazione del calcio europeo, perché quello forse è l'aspetto meno interessante, ma in realtà Platini punta a cambiare la gestione di tutto lo sport europeo, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, appunto, lo sport dilettantistico e soprattutto, diciamo, la pratica sportiva legata, insomma, al mondo dei giovani. Mm. Le proposte che infatti ha avanzato davanti ai ministri dei 27 paesi della UE che sono riuniti la scorsa settimana riguardano vari aspetti. Si è partiti appunto dalla regola del 6+5 che è stata chiesta da Blatter già diverse volte, sì, e ha ricevuto, diciamo, un diniego assoluto da parte della Commissione europea. C'è un principio in Italia, quello della, in Italia, in Europa, che è quello della libera circolazione dei lavoratori. I calciatori sono considerati dei lavoratori e quindi non si ritiene opportuno. Stavolta però i ministri dello sport hanno manifestato un certo interesse per le proposte di Platini, hanno almeno detto che prenderanno in considerazione, insomma, i problemi, le problematiche che sono state sottolineate e avvieranno, insomma, una commissione di studio per individuare, diciamo, dal punto di vista strettamente normativo le possibili soluzioni. Ecco, può darsi che il fatto che stavolta, pur senza portare a casa alcun risultato, come è inevitabile, tantomeno quando un problema lo si affaccia, sia pure ufficialmente e sia pure un problema già sul tappeto da tempo. È possibile che facendo Platini in questo caso rima con Sarkozy, nel senso che è stata un'azione comune, nel senso che il governo francese condivide in pieno questa proposta, è possibile che questo abbia dato più forza, immagino di sì, assolutamente. La presidenza francese si è caratterizzata per un grande, diciamo, spirito di iniziativa in questo semestre e lo ha manifestato su altri versanti, quello della crisi economica e finanziaria, insomma, dei rimedi alla recessione che sta incombendo in tutta Europa. Chiaramente l'aspetto apparentemente marginale dello sport è stato anche curato personalmente da Sarkozy, che ha appoggiato in toto le istanze proposte da Platini, hanno fatto fronte comune. Il cambiare una regola come può essere quella del 6+5 e che apparentemente attiene che ricordo per chi non avesse seguito la diatriba, 6+5 significa contemporaneamente in campo in qualsiasi squadra europea almeno 6 giocatori di formazione O comunque selezionabili per la nazionale di quel paese. Esatto, perfetto. Sembra una regola, voglio dire, semplicemente tecnica, ma significa poter valorizzare i vivai, poter significa avere una rivoluzione. Una rivoluzione. Pensiamo in Italia all'Inter, insomma, che spesso e volentieri all'Arsenal in Inghilterra. Siamo ormai a tantissimo. Alle multinazionali che ormai, diciamo, caratterizzano tutti i club di vertice in tutti i principali campionati. Certo. Non avere la possibilità di schierare giocatori di propria formazione significa non coltivare, diciamo, i campioni in erba, non coltivare i vivai, cosa che invece, insomma, ha sempre rappresentato una tradizione di alcune scuole calcistiche. Si stanno perdendo le scuole calcistiche e le caratteristiche tecniche di determinate nazionali sono ormai snaturate. Questo è quello che vorrebbe recuperare Blatter, questo che vorrebbe recuperare Platini. Ed è questo l'argomento su cui diciamo che una piccola breccia si è aperta, poi bisogna vedere quanto si riuscirà ad allargarla, ma un tentativo si è fatto. Mi piacerebbe sapere invece, visto che tu l'hai seguita con attenzione, che esito ha avuto l'altra operazione lanciata a Biarritz in maniera ufficiale, e cioè quella di trovare il modo di mettere il naso nei conti davvero delle società, a partire da quelle britanniche, che sono probabilmente le più indebitate del pianeta in questo momento, arrivando a minacciare addirittura, come si diceva la settimana scorsa, l'esclusione dalle coppe europee. Cioè che passi avanti ha fatto questo tentativo? Ecco, continuando nel filone di tessere l'odio di Platini è stata intelligente a capire che, proponendo la questione in termini, diciamo, molto integrali, cioè creazione di un organismo europeo che vigili sui conti delle singole società, avrebbe avuto, insomma, una risposta negativa su tutto il fronte. Ha un attimo ridimensionato la sua proposta, ha invocato il concetto di fair play finanziario, però è rimasto duro nel chiedere che le singole federazioni che hanno competenza sulla correttezza della gestione finanziaria dei club si adoperino affinché ci sia una appunto vigilanza più attenta e si evitino in futuro situazioni in cui i club siano diciamo caratterizzati da una gestione con perdite di centinaia di milioni di euro. Certo. Ed è una realtà che conosciamo, di cui abbiamo discusso, che riguarda non solo i campionati più importanti, la Premier League, il campionato francese, quello spagnolo e anche il nostro. Come? Abbiamo letto stamattina, ho letto su Repubblica stamattina che c'era per esempio anche i primi segnali di una grave crisi nel campionato russo con due squadre che si stanno fondendo, forse una che... E con anche di Federazione Russa, perché la Federazione Russa si è letto che è il solito Magnate Abramovic, per esempio, a pagare in questo momento lo stipendio annuo di Indink, e cioè del commissario tecnico della nazionale. Era presente anche l'Italia a questo, cioè c'era anche la delegazione italiana, ovviamente, visto che si parlava di UE, a questo vertice. E mi pare che la proposta del sottosegretario allo sport Rocco Crimi sia comunque interessante. In effetti ha colto nel segno. Prima di pensare a un sistema unico contabile, cioè che verifichi i conti e faccia sì che ci sia un fair play finanziario, nel senso che chiaramente le squadre che possono indebitarsi e che hanno più debiti possono anche offrire stipendi maggiori ai calciatori e accaparrarsi campioni, ha detto Crimi, bisogna però anche considerare quella che è la differenza dei sistemi fiscali. Certo. Perché se in Spagna possono offrire a un calciatore stipendi tassati al 20% e in Italia o in Germania andiamo invece a aliquote superiori al 40%, è chiaro che anche lì c'è una concorrenza sleale ed è nei fatti, quindi prima ancora che pensare ai conti pensiamo invece alle imposte. Anche l'Europa è un po' indietro sull'armonizzazione fiscale, almeno per quanto riguarda le imposte dirette, ma non vogliamo entrare troppo nel dettaglio tecnico. Io mi auguro soltanto che in un periodo di crisi mondiale che riguarda ben altre categorie di, chiamiamoli, lavoratori, mi auguro che tra il 20 spagnolo e il 40 italiano si vada verso il 40 italiano e magari più, perché stiamo pur sempre parlando di tempo libero e non di... E non di lavoro, no? Con tutto rispetto. Bisogna però considerare anche che c'è un indotto legato alle prestazioni sportive di una squadra, e penso ai diritti televisivi, al merchandising, che si aggira intorno a un miliardo per quanto riguarda l'Italia, qualche soldino in più per quanto riguarda la Premier League. Insomma, c'è una buona fetta di economia che si muove intorno al calcio. Se la studino per bene, ma tengano conto che far girare l'economia calcistica è una bellissima cosa, se poi gira meglio prima l'altra è pure più augurabile. Comunque, abbiamo una trentina di secondi circa, vogliamo introdurre un vari ed eventuali, ma ripeto da 30-40 secondi, o vogliamo darci appuntamento? Diciamo che la prossima settimana magari parliamo di quello che sta accadendo in Parlamento con la finanziaria e con la conversione del decreto anticrisi. Ci sono novità in particolare per lo sport dilettantistico, si prospetta una sorta di giro di vite per far sì che, insomma, chi fa sport usando una veste dilettantistica per risparmiare sui contributi e le tasse, ma invece lo fa, diciamo, gestisce in maniera diversa cercando il profitto, sostanzialmente non possa più accedere a questi benefici. Ci sono accorte che qualcosa non va, in particolare nel mondo della pallavolo, il problema l'aveva sollevato anche Mastrangelo la scorsa settimana con un'intervista a Panorama. Si sta muovendo qualcosa e lo racconteremo. Tempi duri diffusi in generale. Allora, grazie Marco Bellinazzo. Beh, prima dell'ultimo spazio dedicato ai vostri interventi, ascoltiamo ancora il ripasso di storia. Nicola Filippone. Ieri. 4 dicembre 1996. È un ritorno da incubo quello di Arrigo Sacchi sulla panchina del Milan. L'ex CT della Nazionale, appena subentrato a Tabarez, comincia con una clamorosa sconfitta a San Siro per 2-1 contro i norvegesi del Rosenborg. Ed è un KO che decreta l'uscita di scena dalla Champions League. Una situazione che alla vigilia sembrava ai limiti dell'impossibile, considerando che per passare il turno al Milan sarebbe bastato un pareggio e che in Norvegia i rossoneri si erano imposti per 4-1. Il ritorno di Sacchi non servirà a raddrizzare una delle peggiori stagioni nella storia recente del Milan, chiusa con un anonimo undicesimo posto in campionato. Con quell'eliminazione che fece davvero una sensazione enorme. quella sera e nei giorni che seguirono. I brasiliani dell'Internazionale di Porto Alegre hanno vinto la Coppa Sudamericana di calcio, hanno pareggiato in casa dell'Estudiantes la finale di ritorno con un gol al 113esimo, cioè nei supplementari, di Nilmar, tra l'altro giocatore che seguiva il Palermo, e avevano però vinto 1-0 all'andata. Quindi l'Internazionale de Porto Alegre. Cesare ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Io parlavo per fare una considerazione. Sì. Sarò anche egoista, ma parlo da interista contento vedendo i cugini. Però io quello che volevo chiederle è questo. Non nota che da 4 o 5 anni il Milan sta facendo quello che fino a 4 o 5 anni fa abbiamo fatto noi, io penso per un bel paio di lustri, perlomeno da quando capisco qualcosa io di calcio, perché ho 40 anni, quindi... Cioè facendo acquisti per buttare fumo negli occhi, ma che a livello di utilizzo e di servizio per la squadra sinceramente servono proprio a poco. Ed erano gli acquisti che purtroppo abbiamo fatto noi, ripeto, per un bel po' di tempo. Volevo un suo giudizio su questo e la ringrazio. Non proprio con lo stesso dilettantismo allo sbaraglio dell'Inter di allora, dal mio punto di vista perlomeno. No, non proprio così, perché insomma no, cioè da questo non arriverei fin lì, ma certo qualche sintomo da figurina indubbiamente c'è, e dato che quella un po' era la politica della figurina, del capriccio del momento, dello sfizio che veniva seguita, che è stata seguita per tanti anni all'Inter, in effetti adesso qualche analogia c'è, e mi pare che sia difficile negarlo, insomma, sia abbastanza difficile escluderlo. Vi ho detto dell'Internazionale de Porto Alegre, mi fa piacere raccontarvi che ieri a Sergio Zavoli è stato assegnato il premio Una Penna per lo Sport nel Salone d'Onore del CONI, alla un premio alla carriera, a una lunga ed eccezionale carriera giornalistica, si legge nella motivazione. Poi la carriera di Zavoli ha preso altre più nobili direzioni, ma è indubbio che i suoi primi grandi successi siano stati legati allo sport, in particolare al ciclismo, al processo alla tappa che lui inventò. Zavoli ha commentato dicendo: la mia vita è stata dedicata a un mestiere bellissimo, fare giornalista infatti è un privilegio straordinario, anche se implica un obbligo civile e morale di dire sempre quello che si sa. Non pensavo che la vita a 85 anni potesse riservarmi una giornata come questa. Questo premio è una sorta di grande e decisivo risarcimento delle piccole sofferenze e sconfitte che la vita mi ha riservato quando è stata meno generosa. Il premio letterario del CONI, assegnato nella medesima circostanza, è andato per la narrativa a Gianni Mura per il libro edito lo scorso anno, Giallo su Giallo, pubblicato da Feltrinelli. Tocca a Nunzio da Bologna, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Ascolti, io volevo un suo giudizio sulla cosiddetta giustizia sportiva. Sì. Io sono un tifoso del Napoli da 49 anni, sì, ma quello che sta succedendo ultimamente mi non voglio piangermi addosso, tipico del meridionale, non però piange, ultimamente mi sembra che ci sia un'ingiustizia sportiva. Perché? Allora, Napoli a Bergamo con cori insultanti per i tifosi del Napoli, i giornalisti napoletani non hanno potuto lavorare in tranquillità, non c'è stato nulla. Leggo sul giornale: Olbia contro un'altra squadretta, 5.000 euro di multa per cori razzisti. Mm-hmm. Doni che insulta pesantemente l'arbitro, non succede niente. Lavezzi, per un fallo che ha ricevuto contro l'Inter, gli ha dato 1.500 euro di multa per simulazione. È giustizia questa? Volevo sapere qualcosa da lei, perché lei ha fatto di ogni erba, ha mischiato troppo e ha finito per fare di ogni erba un fascio, e alla fine ha finito con il consueto vittimismo da cui diceva di voler rifuggire. È indubbio che, ma lo abbiamo notato nelle scorse settimane, è indubbio che proprio nel caso, ma non tanto perché il Napoli sia stato punito troppo severamente, quanto per il fatto che sono state invece non punite alcune altre società, non c'è dubbio che ci siano, non sospetti, ma insomma che sia un profumo, un odore poco gradevole di doppio pesismo negli ultimi tempi. Non so dire perché, sinceramente, certamente non compete a me, ma che qualcosa ci sia di sgradevole ultimamente, questo è vero. Provincia di La Spezia, Domenico, buongiorno. Sì, buondì, salve, ogni tanto disturbo io. Disturbi? Sì, mi introduco in questa splendida trasmissione che conduce lei, è intelligente, molto pagata, molto fatta per bene. E volevo soltanto dire una cosa che riguarda i difensori degli ultimi tempi, quelli che subiscono tantissimi gol rispetto a prima, quando c'era più, come dire, difensori si nasceva, o una scuola era più tecnica, più portata al difensivismo italiano, come dire, no? C'è una cosa che volevo mettere in risalto, però rispetto agli anni scorsi, quando c'era appunto la scuola italiana che faceva scuola di difesa, adesso abbiamo la scuola della zona che non abbiamo ancora interpretato benissimo tutti quanti, nel senso largo del termine. Molti allenatori sono bravissimi a preparare la fase difensiva, molti altri no. E quindi quando succedono queste situazioni, per me è soltanto una scuola di quell'allenatore che arriva per quella stagione in quella squadra, nulla di più, perché molte volte non hai più punti di riferimento che riguardavano, che ne so, Marcherò, Savoldi oggi, mentre adesso ti arriva una volta Kakà, una volta Shevchenko, una volta un altro, insomma, cioè non hai dei punti di riferimento ben precisi, e questo porta a sbagliare praticamente, o quantomeno, o meglio, ad essere dei buoni strateghi nel preparare come dire, le scorribande dei propri attaccanti. Sì, oppure anche a essere degli allenatori scarsamente preparati, insomma, e forse non in grado di insegnare. Poi dipende dalla qualità dei giocatori prima ancora che dei tecnici. Ma è indubbio che l'Italia aveva una scuola, questa scuola si è un po' persa. Il passaggio dalla marcatura uomo a quella zona, si è detto tante volte, ma soprattutto sono i tecnici a dirlo, è stato da un lato migliorativo, perché ha permesso in fase di impostazione una miglior distribuzione, ma anche in fase difensiva una miglior distribuzione delle pedine, cioè una più razionale occupazione del campo e degli spazi. Su questo non c'è discussione davvero. Nello stesso tempo però la fine della marcatura tradizionale a uomo ha fatto perdere al singolo difensore, ha fatto perdere alcune qualità, alcune attitudini, e ogni volta che si fa il confronto tra uomo e zona, che per fortuna adesso è diventato un libero confronto di opinioni, mentre 10-12 anni fa, ai tempi del, anche 15, ai tempi del primo sacchismo, era addirittura dogmatico, sicché quando si diceva libero si rischiava di incappare chissà che sanzioni. Qualcosa si è perso da questo punto di vista, perché io credo che l'ideale sarebbe saper marcare sia nell'uno che sapersi difendere sia nell'uno che nell'altro modo, e alternare le formule a seconda dei momenti e soprattutto delle caratteristiche degli avversari. Chiudiamo con Vincenzo, chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo parlare della violenza, cioè se è vero l'assioma che calcio è uguale violenza, ma perché non toglierlo da mezzo questo campionato di calcio? mi sembra un po' drastico, sinceramente. Il calcio non è uguale a violenza, tant'è vero che in tanti paesi del mondo il calcio è uguale a divertimento, e da noi lo è stato per tantissimi anni. La società degenerata è uguale a violenza, e uno Stato che si voglia difendere dalla degenerazione della società combatte la violenza in qualsiasi posto si vada ad annidare, e quindi evidentemente anche nel calcio. Grazie anche a lei per il suo intervento, grazie a Flavio Suardi in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Appuntamento con il Giornale Radio.